Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e buona settimana. Oggi dedichiamo l'apertura della nostra puntata alla nube islandese. Il ministro della salute manda messaggi rassicuranti. Attualmente, si legge nel comunicato che potete trovare sul sito del ministero, non ci sono rischi per la salute pubblica e non è necessario il ricorso a dispositivi di protezione individuale. Naturalmente la situazione è sotto controllo e il ministero fa sapere che d'intesa con il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare hanno attivato le regioni, l'ISPRA e le agenzie per l'ambiente regionali per un attento monitoraggio della situazione, allo scopo naturalmente di valutare l'eventuale impatto sulla salute. Ma in linea con noi ho due esperti ai quali voglio chiedere di spiegarci di che cosa è fatta questa nuvolona e se ci sono, magari nei prossimi giorni ci potrebbero essere dei problemi per la nostra salute. Saluto allora il dottor Giovanni Invernizzi, medico responsabile del laboratorio di ricerca ambientale della Società Italiana di Medicina Generale. Buongiorno dottor Invernizzi, bentornato. Buongiorno. E di questo laboratorio fa parte anche il dottor Ario Ruprecht, che è tecnico. Buongiorno. Buongiorno. Inizierei da lei. Ci spiega come tecnico di che cosa è fatta questa nuvolona? Beh, la composizione delle nubi variano da vulcano a vulcano, ma fondamentalmente la composizione è materiale crostaceo, cioè della crosta terrestre, ossidi di silicio, di calcio, di ferro, solfati, quando c'è molto zolfo e ossidi di zolfo, anidride carbonica naturalmente, CO2 eccetera. Le dimensioni variano anche in funzione inversa rispetto alla distanza. Naturalmente nelle immediate vicinanze del vulcano e sotto vento ci sono prima i lapilli molto grossolani, poi le ceneri. A qualche decina di 20 chilometri possono arrivare intorno, non so, 100, 200, 300 millesimi di millimetro. Però mano a mano che il vento porta la nube lontano dal vulcano, le particelle più pesanti piano piano per attrazione gravitazionale scendono e quindi rimangono in sospensione quelle più piccole, e naturalmente a mano che aumenta la distanza si disperdono e diminuisce anche la loro concentrazione. Certo. Per esempio, tanto per dare un'idea, così in Scozia in questo caso possono essere rilevate delle particelle che variano da 10, 15 a 80 millesimi di millimetro, cioè micrometri, quindi superiori al PM10, e sono rilevabili in questo caso in Scozia anche dalle centraline dell'ARPA locale. In Italia però rimangono molto ad altezze molto molto elevate, oltre i 10.000 metri, 20.000 metri. E questo vuol dire, dottore, che non si possono rilevare? Intanto sono molto più sottili di quelle rivelate in Scozia, possono essere addirittura a livello del millesimo di millimetro, anche al di sotto a livello di nanometri, e sono così disperse e rimangono a così elevate altitudini che a livello urbano non sono rilevabili. Talmente disperse, la concentrazione è talmente bassa e i diametri di queste particelle sono così sottili che non credo che le centraline dell'ARPA possano riuscire a distinguere l'apporto di questa nube sul basale normale. Certo. Se ritroviamo... Dottor Invernizzi, già questo, quanto ci ha detto il dottor Ruprecht, ci fa capire che insomma non ci dovrebbero essere problemi per la nostra salute, ma lei che cosa mi dice? Sì, buongiorno Nicoletta. Buongiorno. che posso dire è che dai rilievi della letteratura scientifica, che siamo andati a rivedere ovviamente, perché queste sono situazioni abbastanza saltuarie per fortuna, risulta che i rischi per la salute delle eruzioni vulcaniche sono soprattutto quelli di vicinanza, sì, quindi in prossimità, vuol dire qualche chilometro. Adesso ho sotto mano per esempio dei dati pubblicati recentemente da un gruppo di ecuadoriano che ha registrato un numero di peggioramenti o di ricorso a pronto soccorso nei primi giorni, pochi giorni prima dell'ultima eruzione di un vulcano che dista 13 chilometri, sì, da Quito, la capitale, che si chiama Guagua Pichincha. Hanno sempre dei nomi pazzeschi. Sì, che sono divertenti. E in questo caso il Guagua Pichincha ha cominciato ad avere un'attività fumarolica che ha già dato disturbi, fumarole, quindi gas soprattutto, quindi anidride solforosa, che aveva cominciato ad fare aumentare il ricorso al pronto soccorso, soprattutto per le infezioni respiratorie e crisi d'asma nei bambini più piccoli di 5 anni. Questo poi, quando c'è stata la grande eruzione, dopo qualche giorno, ha portato ad un aumento, ma non gravissimo, un raddoppio della frequenza di ricovero in pronto soccorso, senza casi mortali in quel caso, ma si parla appunto di vicinanza, quindi di prossimità. Mentre per noi, per la nube, è lontana e alta, quindi possiamo stare tranquilli. Io direi assolutamente, non ci sono i dati che abbiamo tutti di referenza, sono questi. Poi se proprio si va a cercare stime fatte per esempio da un'eruzione islandese del 1780, ci sono anche dei dati un po' più impressionanti, cioè con qualche decesso addirittura per problemi respiratori in Gran Bretagna e addirittura sulle coste francesi, ma queste sono stime. Per il momento, massima tranquillità, possiamo dire così. E poi siamo monitorati bene, si può anche vedere il sito dell'ARPA, che monitora ogni giorno e che anche oggi ci dice che non c'è nessuna alterazione e cambiamento delle concentrazioni degli inquinanti al suolo. Allora, io ringrazio il dottor Ruprecht e il dottor Invernizzi, che sono stati i nostri ospiti, ci hanno spiegato e rassicurato. Grazie a voi. Buona giornata. Arrivederci a tutti. E prima di affrontare il tema del giorno, vi anticipo che torneremo coi piedi per terra, perché oggi parleremo di gambe. E intanto vi ricordo il nostro numero verde 824 0024. Voglio farvi ascoltare un breve estratto del commento apparso ieri sul Corriere della Sera a proposito della nuvolona di Gillo Dorfles. Lo ascoltiamo. È un segno del destino. Abbiamo qualcosa che viene dall'alto da cui difenderci? Divinità o diavolo che sia, questa nube impone dall'alto all'umanità quello che gli uomini non credono possa essere loro imposto. Qui non abbiamo il fulmine, che è una carica che colpisce il singolo individuo, e neppure il mare in burrasca che travolge, ma una specie di opacità diffusa, ovvero una obliterazione del visibile contro la quale non si può lottare con i mezzi della nostra società meccanica. Per questo la nube che sta avvolgendo l'Europa non è più catastrofica di altri eventi, ma è più ammonitiva dei soliti disastri meteorologici. La nube dimostra come un semplice velo può essere steso sull'umanità, nascondendo improvvisamente tutto l'enorme potenziale che di solito difende l'uomo dalle catastrofi naturali. Bene. A me è piaciuto e ve l'ho voluto riproporre. E, l'abbiamo riascoltato e vedevo che lo ascoltavano con piacere i miei due ospiti in studio, a cui oggi affideremo le nostre gambe. Li saluto, così ve li presento. È tornata a trovarci la dottoressa Lidia Rotavender, responsabile del centro trombosi all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano e presidente di ALT, l'associazione lotta alla trombosi e alle malattie cardiovascolari. Buongiorno e bentornata. Buongiorno a voi. Qua in studio con me abbiamo anche il professor Giovanni Battista Agus, ordinario di chirurgia vascolare all'Università di Milano e past presidente della Società Italiana di Flebolinfologia. Buongiorno professore, bentornati anche a lei. Allora, voi da casa, intanto attivatevi, date un voto alle vostre gambe o a quelle di vostra moglie, di vostro marito, se preferite a quella della collega, se le avete sott'occhi. Guardate insomma le gambe di chi volete, però guardatele, perché oggi ne parliamo insieme. Chiamateci subito all'800 24 0024. Non vogliamo sapere se sono dritte, storte, tozze o affusolate, belle o brutte, vogliamo sapere se sono gambe in gamba. Allora, adesso molti di noi avranno hanno le gambe coperte da calze, magari stivali o pantaloni, o siamo in ufficio e non possiamo naturalmente denudarci e accavallarle sulla scrivania, magari siamo anche in traffico, impegnati con i piedi sui pedali, però possiamo raccontare come sentiamo le nostre gambe. E quindi occhio a questi sintomi: gonfiore, le sentiamo gonfie, magari le sentiamo pesanti o con dei formicolii. Chi invece le gambe le può accarezzare con lo sguardo, o le conosce a memoria, capita anche questo, può raccontarci se ci sono capillari e dove, se ha le vene varicose, se nota delle macchie, se la pelle della zona della coscia a buccia d'arancia, insomma se ha la cellulite. Parleremo anche di questo, quindi sentiamo la sensazione ma anche guardiamo gli aspetti da non sottovalutare. Dottoressa Rotavender, inizierei con una distinzione che all'apparenza può sembrare banale, però credo possa aiutarci. Gambe maschili e gambe femminili sono diverse, lo vediamo, ma non solo esteticamente. No, sono diverse perché hanno una storia diversa e hanno un assetto genetico che può essere diverso. E passano nelle diverse fasi della vita momenti in cui sono esposte, per esempio le gambe delle donne, a un sovraccarico più alto, per esempio la gravidanza. Le terapie ormonali, ma anche il diverso assetto ormonale nella donna, fanno la differenza. Quindi no, sono diverse non solo. Adesso si parla molto di medicina di genere, ecco, forse quello delle gambe e delle vene delle gambe e del meccanismo della trombosi nella donna e nell'uomo è effettivamente molto diverso. Allora, indipendentemente dalle differenze di genere, una cosa è certa: le nostre gambe spesso si lamentano. Il momento critico è la sera, quando le sentiamo gonfie e stanche, un po' avvertiamo una sorta di tensione, tanto che ci togliamo le scarpe e le nostre gambe si ripigliano, dottoressa, ma non sempre. Ecco, iniziamo da questa abitudine per alcuni che diventa quotidiana, no? Appena si arriva a casa, spesso le persone che magari fanno dei lavori, cui stanno molto in piedi o devono camminare molto, ecco, hanno questa, buttano le scarpe. Ma io penso che sia una cosa che, se la riconduciamo a dei concetti molto semplici, sia facilmente comprensibile. Le gambe e i piedi in particolare sono il punto in assoluto più lontano dal cuore. Il cuore deve fare un'azione di pompa per richiamare tutto il sangue che dalle vene deve tornare al cuore per essere mandato nei polmoni a ripulirsi. Più lontano è e più fatica può fare. Quindi ci sono cuori affaticati che richiamano con più difficoltà, quindi c'è il ristagno. Questo accade soprattutto nelle persone di una certa età o nelle persone che sono malate, e il punto dove ristagna è sicuramente le gambe. Poi ci sono alcune posizioni, è una colonna di sangue che deve tornare, e quindi le persone più alte o più grasse, quelle che hanno del grasso per esempio sull'addome, può darsi che facciano più fatica a riportare il sangue verso il cuore. E la stessa cosa che accade in gravidanza, a prescindere dall'assetto ormonale della gravidanza, ma proprio perché l'ingrandimento dell'addome, ecco, questi uomini o queste donne che hanno tanto grasso addominale è come se si trovassero sempre meccanicamente o idraulicamente in una situazione di gravidanza. Poi c'è il fatto che ci siamo abituati a muoverci sempre meno, e purtroppo stiamo anche molto spesso forse in piedi, e quando siamo in piedi non abbiamo l'accortezza di fare dei movimenti con i muscoli per riportare il sangue al cuore. E poi c'è che siamo abituati ad abitudini, ad usi che non sono fra virgolette sani. Per esempio il fatto che portiamo pantaloni, le donne, molto stretti, biancheria molto stretta, e questo effetto elastico che è facilmente visibile quando togliamo le calze e vediamo che c'è un segno come da elastico dietro al ginocchio oppure all'inguine. Tutte queste sono precauzioni di una banalità straordinaria, ma che possono essere messe in atto da subito. Professor Agus, andiamo invece a osservare le nostre gambe. Capillari, macchie, vene più o meno evidenti, sono problemi comuni che possono essere prevenuti, curati, ma soprattutto devono essere ben inquadrati. In alcuni casi non sono solo problemi estetici. Professore, come possiamo orientarci? Ci impresti il suo occhio clinico? Beh, innanzitutto non in alcuni casi, direi che in tutti i casi sono problemi estetici, perché qualunque situazione di stasi porta indubbiamente ad essere attenti alle proprie gambe, prima di tutto per la bellezza. Certamente non molti sanno che da almeno una decina d'anni la comunità scientifica internazionale si è data una classificazione che prevede 7 classi di situazioni di stasi venosa, e da 0 a 6. Lo 0 è paradossale perché vorrebbe dire che non c'è niente. In realtà c'è qualcosa, c'è il disturbo, c'è il sintomo tipico di questa stagione, di passaggio dalla stagione fredda a quella calda, che già chiama far qualche cosa, ma non si vede ancora. il qualche cosa che sono le telangiectasie capillari, che è nella classe prima, non si vede ancora la varice, che è nella classe 2, non si vede ancora il gonfiore, che noi chiamiamo edema, che è nella classe 3, e via via 4, 5, 6, sino alle alterazioni trofiche, che vuol dire l'alterazione della condizione della pelle, che si danneggia, si rompe, si imbianchisce, si diventa dura, lignea, sino all'apertura con l'ulcerazione, e quindi anche sino al rischio di trasformare questa situazione di stasi cronica in trombosi venosa o flebite. Quindi vedete che c'è tutta una serie di gradazioni o classi diverse che fanno sì che non si possa più parlare di malattia varicosa, ma di disturbi venosi cronici differenziati nella loro manifestazione, quindi non varici ma malattia o anche insufficienza venosa cronica, è chiamata ormai, anche molti chiamano così, insufficienza venosa cronica. È un gruppo molto diffuso di malattie della stasi circolatoria, fondamentalmente venosa, poi viene coinvolta in qualche maniera, ma non voglio sfuggire al tema delle vene, anche la linfa, quindi c'è anche un edema di origine linfatica. Allora io direi ai nostri amici da casa di raccogliere, come cerchiamo di fare sempre, alcune informazioni importanti da riferire al nostro numero verde 824 0024. Sentiamo la nostra scheda. La sera hai la sensazione che le scarpe ti siano diventate strette? Hai notato che la pelle della caviglia è arrossata o pare più tesa e sottile? Avverti dolore e prurito quando le tue gambe sono pesanti? Mettere le gambe a bagno ti dà sollievo? Durante il giorno avverti formicolio o crampi? Noti che le tue vene varicose hanno cambiato colore o dimensione? O sono diventate più evidenti? Hai dei capillari? In quali zone della gamba in particolare? Professor Agus, vuole aggiungere qualcosa alla nostra scheda? Ma sì, mi sembra di aver contato 7 consigli o 7 domande. Ne aggiungerei altri 3 per fare proprio un decalogo. Sicuramente chiederei alla persona se i suoi genitori, i suoi fratelli e sorelle, i suoi nonni hanno problemi di questo genere. Questa è una domanda importante. Forse quindi la nona domanda importante porrei: hai già avuto flebiti? E per flebiti noi intendiamo trombosi venose sia superficiali che profonde, perché queste portano a varici e ad altre conseguenze di disturbi venosi cronici. E infine, dimenticato ma lo metterei al decimo punto, guarda la tua postura: hai un piede piatto, un piede cavo, una colonna scoliotica, una lordosi, cioè una situazione che ti fa stare in piedi e ti fa camminare male, perché tutto questo è all'origine di possibili disturbi venosi cronici. Quindi allargherei il decalogo, lo farei diventare un decalogo. La facciamo diventare un decalogo. Invece alla professoressa Rota Wender chiederei di aiutarci con un autotest. Nelle nostre trasmissioni, quando è possibile, cerchiamo di dare anche uno stimolo ai nostri ascoltatori di diventare un po' medici di se stessi, non per sostituirsi al medico. C'è un autotest molto semplice che la dottoressa Rota Wender può spiegarci, che possiamo fare tutti, se non in questo momento. Se riuscite, chiamateci e noi vi raccontiamo, ma potete anche farlo in altre occasioni della giornata. Dottoressa, la metterei allora così: primo guardare e secondo toccare. Il primo guardare vuol dire guardare se le gambe hanno la stessa dimensione, se il gonfiore insorge prevalentemente in una gamba piuttosto che in un'altra, e se sulla gamba compare un cordone rosso e dolente lungo il decorso di una vena. Questa è già una cosa molto importante che richiede, se non si può andare dal proprio medico di famiglia con urgenza, un accesso in pronto soccorso. Il secondo è toccare, quando si sentono le gambe gonfie, e vuol dire con il polpastrello del pollice, che diciamo è il dito più forte, il primo dito della mano, schiacciare sopra proprio la caviglia e vedere se rimane l'impronta. Quando rimane l'impronta, in genere questo vuol dire che ci sono dei liquidi. Il meccanismo è molto semplice, è come se su una canna di irrigazione del giardino una persona mettesse un piede, si crea una pressione alle spalle da dove il liquido non può più fluire, e si crea una carenza di flusso in avanti, dove il piede schiacciando toglie. Certo. L'aumento di pressione, se la canna fosse permeabile, provocherebbe una fuoriuscita del liquido. La stessa cosa succede nelle vene. Quindi direi primo guardare, secondo toccare, e imparare poi a rivolgersi quando serve al proprio medico. E noi torniamo ad occuparci delle nostre gambe, per avere gambe in gamba. Io vorrei chiedere ai miei esperti di aiutarci a capire se alcuni dei sintomi che noi spesso avvertiamo sono segnali di un potenziale malessere delle nostre gambe. Allora, io inizierei da una delle domande più frequenti. Ho i piedi freddi. Sarà la circolazione, dottoressa Rotavender? Ma in genere il problema della temperatura è legato più all'apporto di sangue arterioso, cioè di quel sangue pulito, carico di ossigeno, che il cuore deve mandare in periferia, e che di nuovo qui i piedi sono lontani, e quindi può darsi che ci sia nel tempo una qualche difficoltà nel sistema idraulico di portare un apporto di ossigeno sufficiente. E di nuovo rientra il tema del da tutte e due le parti o soltanto in una gamba, soltanto i piedi o anche le mani. Per esempio i fumatori più facilmente tendono ad avere le estremità fredde, perché la nicotina e tutte le sostanze che chiudono i piccoli vasi possono provocare questa costrizione. Ci sono alcune persone che soffrono di malattie di tipo reumatico, sì, che possono avere le arterie, cioè questi piccoli rami arteriosi che arrivano fino alle dita, che possono essere nel tempo ostruite, e anche non solo nel tempo, spesso le donne soffrono di queste patologie e che comportano proprio un difetto di flusso, quindi le mani, le dita diventano bluastre, e soprattutto il letto delle unghie può diventare, sì, bluastro. Quindi direi che la cosa importante da dividere è quale, tutte e due, da tutte e due le parti o da una parte sola, e che tipo di sintomi ho, ed essere capace poi di riferirli, ripeto sempre, al proprio medico. Noi siamo i primi interlocutori di noi stessi, ma poi dobbiamo filtrare per rivolgerci alla persona giusta. Professor Agus, un'eccessiva fragilità capillare, in pratica la facilità a trovarsi sulle gambe dei piccoli lividi, oppure queste teleangiectasia, come le chiamate voi, che sono queste rametti, no? Delle venine sottilissime che possono comparire all'interno della coscia o sulle caviglie, ci aiuta a capire quando sono proprio segnali di sofferenza, quando occorre vederli, ma parlarne, come dice anche la dottoressa Rotavender, al medico? Beh, certamente. Intanto bisognerebbe distinguere questi capillari, se sono dei vasellini che diventano visibili e stanno visibili sempre, oppure se sono delle rotture per cui il sangue fuoriesce e dà il classico livido, ecchimosi, eccetera, che è temporaneo. I primi, diciamo che sono molto comuni, più del 50% delle donne li ha, e quindi non bisogna drammatizzarli. Se sono in una sede che è quella intorno al malleolo o caviglia, certamente hanno un indice così di storia naturale della malattia, che cioè andranno avanti di più degli altri diffusi alle cosce o sparpagliati. Noi parliamo di corona teleangiectasica proprio perché fanno corona intorno al malleo. Quanto invece a quelli temporanei, io mi preoccuperei se fossero molto frequenti, quindi è la frequenza l'indice. Se uno, senza prendere un trauma, un colpo violento, ma appena sfiorando un tavolo lo vede comparire, indubbiamente la fragilità capillare c'è e va trattata anche farmacologicamente. Dottoressa? Ci sono anche dei piccoli segni che oggi secondo me sono molto importanti. Abbiamo moltissime persone che stanno prendendo dei farmaci antiaggreganti, antitrombotici, perché hanno avuto un infarto, perché hanno il diabete, quindi la classica vecchia aspirina. Sì. L'aspirina provoca una fluidificazione del sangue. Può capitare in alcuni casi che ci siano dei piccoli stravasi. È un sistema molto pratico per identificare e fare la differenza fra un capillare dilatato e uno stravaso vero di sangue, è prendere un bicchiere o una qualunque superficie di vetro trasparente. Sì. Poggiarla nel punto dove c'è lo stravaso rosso, sì, e per capire se è un capillare dilatato scomparirà tutto, perché premendo il capillare si svuota. Se invece è veramente uno stravaso rimarrà la macchiolina rossa. Questo anche è un segno importante. Il fondo di bicchiere, ma quante cose vi diciamo oggi. 800 24 00 24, io e pantaloni, ma adesso poi un autotest, me lo faccio subito. Attilio da Bergamo, buongiorno, Viareggio. Ah, da Viareggio, mi hanno messo Bergamo. La stessa. Dunque, io mi rendo conto ovviamente che fare diagnosi a distanza è molto difficile. Sì, infatti noi non vogliamo fare diagnosi, ma mettere i nostri... Un parere. Allora, io recentemente, da circa un mesetto o due, premetto, ho due ernie al disco. Sì. Riscontrate 7-8 anni or sono. Ho dolori non intensi, doloretti alle gambe, accompagnati da piccoli dolori tipo infiammatori agli alluci, ai pollici e agli alluci del, sì, piede. Mi è stato consigliato una serie di accertamenti con analisi cliniche, il risultato sembrerebbe tutto a posto. però il problema persiste. Ne premetto, faccio una vita abbastanza sedentaria, sono spesso in auto, mi muovo poco, a parte ieri che ho zappettato il giardino, sì. Oggi sono in condizioni di raccogliere con il cucchiaio. Esatto. Abbiamo bisogno di altri dati o possiamo dare già un'indicazione, professor Agus? Si può dare, perché entra il discorso della diagnosi differenziale tra problemi di mal di gambe da circolazione e problemi di altre strutture che nelle gambe sono importanti, a parte ossa, muscoli, i nervi. Ora, il caso appena citato è anche molto ben descritto da un punto di vista, noi diciamo, anamnestico, indica che non è tanto la circolazione essere implicata, ma la colonna vertebrale che attraverso compressioni che si prolungano attraverso tutto il sistema del nervo sciatico, sciatico poplite, eccetera, si manifestano lontane dalla causa che invece è alta dietro nella schiena. Il fatto che proprio lo stile di vita porti a star fermi accentua questo disturbo. Quindi è importante mal di gambe, ma fare sempre una diagnosi differenziale. Quanto pesa Attilio? Io sono 1,87 e peso 74 kg. Quindi non è nemmeno pesante, no. Già avanti. E poi zappetta anche un po' avanti. Di movimento lo fa. Grazie, noi andiamo a Luciana che ci chiama da Milano. Buongiorno Luciana, benvenuta. Buongiorno e grazie per questa trasmissione. Dunque, io telefono per mio marito, sì. Che ha 54 anni, fa una vita piuttosto sedentaria, va in bicicletta a fine settimana, 60-70 km. Beh. E da circa 2 mesi nota una specie di pesantezza, stanchezza ai polpacci delle gambe, come se avesse fatto una lunga escursione in salita e le gambe vanno un po' per conto loro, così mi dice. E ha fatto, siccome soffre di ipertensione sotto controllo, sì. E prende dei farmaci beta bloccante, sì. C1 per la pressione, ha provato anche a sospenderle che per 4-5 giorni circa, ma non ha avuto nessun risultato. Ha fatto gli esami del sangue, è andato dal cardiologo, ma risulta tutto a posto. Non riusciamo a capire che altro possiamo fare. Se mi dà un consiglio la ringrazio molto. Dottoressa Rotavendere, io nel consiglio che possiamo dare a Luciana per suo marito, io vorrei ricordare anche la campagna di ALT, perché sappiamo che ALT è una, direi l'unica, l'associazione l'unica. In Italia che si batte per fare informazione e ricerca su questi che sono delle patologie importanti come la trombosi. Sì, vogliamo prevenire la trombosi. Volete prevenire la trombosi e le malattie cardiovascolari. Noi partiamo dalle gambe perché sono un indicatore importante, quindi ricordo ai nostri ascoltatori di andare sul sito di ALT, dove possono sicuramente trovare tantissime informazioni non solo sulle gambe ma in generale su questa patologia, che si può manifestare con anche sintomi molto sfumati. Certamente, perché la trombosi è un problema che nasce in un punto del sistema vascolare, ma che è determinato da cause che non sempre hanno a che fare con quel punto. www.trombosi.org, il sito dell'associazione, si possono trovare le informazioni. Per rispondere alla signora, il suo marito prende dei beta bloccanti. Di fatto, poverino, fa 60 km, quindi non è che ha le gambe affaticate come se li avesse fatti. Li ha fatti. Un modo potrebbe essere valutare la sua concentrazione di potassio nel sangue. Qualche volta le persone che hanno pressione alta possono avere una leggera disfunzione renale e quindi consiglierei o di fare una prova, se il medico è d'accordo naturalmente, di prendere del potassio anche attraverso l'assunzione di una banana. Vi ricordate, sì. Quel tennista cinese che fra un set e l'altro si mangiava, Chang mi pare, sì. Si chiamasse. Ecco, la banana contiene molto potassio, potrebbe già fare una prova quando va a fare questi sforzi durante proprio la sua gita, provare. Si porta la schiscetta, mangiarla la bananina. E andiamo da Ida, che ci chiama dalla provincia di Brescia. Buongiorno Ida, è vero? Abita lì? Sì, abbiamo sono del Garda, bene. Grazie. Io volevo appunto raccontare che dopo la gravidanza, ho 60 anni, quindi dopo i 20 anni, sono comparse delle piccole venuzze all'interno della coscia. Sì. Queste venuzze sono aumentate e circa una quindicina di anni fa, in seguito poi a una botta che ho preso proprio sempre all'interno della coscia, queste, diciamo, piccole tracce di venine sono aumentate fino a diventare grandi quasi come una mano. Le ho trattate chirurgicamente con un dermatologo, il quale me le ha cancellate piano piano, volta a volta, abbastanza dolorosamente, e sembravano sparite, mentre invece passati adesso i 15 anni, direi ritornano. Che la situazione è uguale, se non peggio. Volevo solo chiedere se era possibile, non mi danno dolore, non ho problemi di peso perché per il tipo di lavoro che faccio, cammino, faccio scale, quindi sono una donna in movimento sempre, quindi diciamo che l'aumento di peso è stato abbastanza lieve, anche se poi ho avuto delle cure chemioterapiche pesanti. Va bene. Però non ho problemi venosi importanti, se non questa cosa veramente antiestetica che tengo anche protette dal sole. È possibile toglierle? Professor Agus, e perché ritornano? Seconda domanda. Beh, partiamo da questo. Intanto non ritornano, probabilmente ne vengono delle nuove. Molto spesso si tende a considerare quello che avevamo tanto tempo fa come una fotografia di quello che abbiamo oggi. Invece il problema è che ci si dimentica di quello che avevo accennato prima. Siamo di fronte a disturbi venosi cronici e la parola cronica sta a dire che dura e si riproduce nel tempo. È stata trattata bene, ha avuto una buona soddisfazione, si tratta di ritrattarle naturalmente a domanda, se lo vuol fare, se ne vuole sbarazzare. Le tecniche sono un pochino evolute probabilmente negli ultimi 15 anni, ma non lo vedo. Gli americani impazziscono per il laser, vero? Sono molto sono filo laser. Sì, il laser si sta usando moltissimo. Devo dire che il contributo italiano è precedente a quello americano, solo che la forza degli americani lo ha imposto molto di più di quanto siamo stati capaci noi, perché le prime sperimentazioni, i primi casi sono stati fatti da noi italiani, e in Italia c'è in effetti una buona tradizione dell'uso del laser, che devo dire richiederebbe però una precisazione su come farlo. C'è un laser endovascolare che viene fatto esprimendo l'energia termica della luce da dentro il vaso, e invece c'è un laser, che è quello che si usa per lo più per il viso, per il décolleté, che è transcutaneo, cioè che attraversa la pelle. Bene, questo secondo laser, quello transcutaneo nelle gambe, potrebbe dare anche qualche brutto scherzo, nel senso che chiude il capillare, chiude la vena, ma potrebbe danneggiare la pelle soprastante. Quindi bisognerà stare attenti al giusto specialista, alla giusta indicazione. Però che oggi mi aiuti a non a cercare lo specialista giusto, ma ad entrare nell'ambulatorio, nello studio di uno specialista, e con una domanda capire un po' che tipo di laser mi farà o che cosa devo chiedergli. Buongiorno, sono qua. Ecco. Ritorniamo innanzitutto a quella famosissima base della medicina, che è stata ricordata opportunamente dalla dottoressa Rota: ispezionare e palpare. Solo dopo questo studio accurato si passerà poi all'uso degli ultrasuoni Doppler, eco Doppler, che ci permetteranno di capire da dove viene il reflusso, cioè da dove viene che il sangue torni indietro e ristagni. Perché se invece ci approcciamo alla persona, non la chiamo nemmeno paziente se vuole qualcosa di estetico, e gli facciamo subito qualcosa, stiamo sbagliando perché trattiamo il visibile senza sapere da dove viene il problema. Ecco, mi raccomando, questa è una precisazione importante. Professore, abbiamo parlato di laser, esiste anche la schiuma? Sì. La schiuma, o mousse o foam, detto all'inglese, oggi si parla moltissimo di questo. Tra l'altro, se mi faranno partire le nubi varie, domani sera partirò per Buenos Aires per il congresso mondiale di angiologia, evento che si tiene ogni 3 anni, e dove la mousse o foam, la schiuma, sarà uno dei protagonisti con più simposi, proprio perché effettivamente con una tecnica nuova, usando pochissimo liquido sclerosante che si traduce in piccole bollicine, si riesce a chiudere senza rischi vene anche grosse, che una volta invece avrebbero dato dei problemi anche di grande rischio per il paziente. Laser o schiuma, non è necessario, non si può dire funziona meglio uno dell'altro. Bisogna selezionare il paziente. Andiamo da Vincenzo, che ci sta aspettando da un po', da Pescara. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno. Siamo Salve, qua. Ciao. Eccoci. Sì, salve, io ho 40 anni, sono affetto da tromboflebite alle gambe da almeno 2 anni e mezzo. Sì. Ho fatto tutte le analisi possibili e immaginabili di sangue, perfino mi hanno fatto fare anche un attacco ai polmoni, sopra la pelvica, pelvica, per vedere, per scongiurare anche eventuali tumori, perché non si è mai trovato la causa. come... mai, mai, mai. Professore, dottoressa Rottavender, come mai? Dunque, lui è un uomo ed è giovane e apparentemente ha avuto questa trombosi in modo spontaneo, da come lo racconta, cioè non l'ha avuta perché si trovava a letto, perché aveva avuto una frattura di un arto oppure perché aveva fatto un intervento chirurgico. E questi sono proprio quei casi in cui bisogna fare due cose. La prima cosa, anzi tre cose. La prima cosa importante è fare la diagnosi come si deve. La diagnosi di trombosi non è mai una diagnosi clinica, ma è una diagnosi che si fa con un Doppler. Quindi punto. Questa è una cosa importante. La seconda cosa è curare la trombosi, ed è importante curarla adeguatamente con i farmaci giusti che oggi abbiamo, alle dosi giuste, per un tempo adeguato. La terza cosa è capire da dove è venuta e perché. Ci sono alcune famiglie nelle quali è più facile che si sviluppi una trombosi piuttosto che in altre, ci sono alcuni casi, ed è per quello che gli hanno fatto questi accertamenti, in cui la trombosi purtroppo è il primo sintomo di una malattia più subdola e più insidiosa, che può essere o una patologia infiammatoria cronica, in alcuni casi di colite per esempio nelle donne soprattutto, oppure una patologia proliferativa, quindi un tumore. Mi sembra che nel suo caso questo l'abbiano escluso, forse si tratta di completare lo studio per l'assetto cosiddetto trombofilico, cioè studiare se il suo sangue tende a sbilanciarsi e coagula troppo rispetto a quello che dovrebbe. Nella puntata dedicata alle gambe, le mie ascoltatrici me lo stanno già chiedendo, ma io ci avevo pensato, cari amiche, non potevamo trascurare un problema che, devo dire, è abbastanza democratico, non fa preferenze, a parte il sesso, si accomoda su glutei e cosce di casalinghe, manager giovanissime a tempatelle, non risparmia neppure le VIP, si dice che Madonna abbia acquistato per la modica cifra di $77,000 una macchina capace di frantumarla, distruggerla. Stiamo parlando di cellulite e in linea con noi abbiamo il professor Antonino Di Pietro, dermatologo presidente dell'ISPLAD. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora io direi adesso la facciamo usare da Madonna, intanto magari il prezzo scende e poi vediamo come funziona. Ma dove va a finire questa cellulite che alcuni macchinari dicono con particolare onde che la sciolgono, la frantumano, la frullano, insomma alla fine la aspirano, che succede? Bisogna essere veramente molto cauti, a parte che recentemente Madonna sembra essere utilizzata per lanciare le cose più strabilianti, bisogna vedere poi se Madonna veramente sa di questa macchina, ma questa, a parte questa piccola parentesi, non è così semplice, o non bisogna immaginare che si colpisca la cellulite svanisca come per incanto, così con un miracolo. Vorremmo schiacciarla e farla un po' soffrire anche, perché veramente. Però come possiamo orientarci in mezzo a tutti questi trattamenti? Per adesso non parliamo di creme, poi dedicheremo magari uno spazio, ma sicuramente le proposte sono molto allettanti. Mi dia un'istruzione per l'uso, per non finire magari in cattive mani o sotto tecniche pericolose. Il primo pericolo è che si sottoponga a qualche cosa che alla fine non dà nessun risultato, tranne un effetto placebo. Nello stesso momento in cui si fanno questi trattamenti si fa anche un po' di dieta, si fa un po' di attività fisica, i risultati sono legati soprattutto a queste ultime cose più che a queste strabilianti o mirabolanti terapie. Quindi attenzione sempre agli specchietti per le allodole. Secondo, attenzione anche a certe metodiche che potrebbero anche essere pericolose. Si parla ultimamente di cavitazione. Sulla cavitazione bisogna veramente studiare ancora meglio il problema, perché questa energia con cui vengono colpiti gli adipociti e che può in effetti distruggerli perché li rompe, non siamo ancora sicuri che non sia veramente innocuo, che faccia solamente bene. Possono essere interessati anche altre strutture, i vasi sanguigni ad esempio. Quindi aspettiamo. C'è ancora molta attenzione su quel che riguarda la medicina seria, ecco, che sta osservando questo fenomeno. Purtroppo tutto sfugge e con un po' di marketing e di pubblicità si finisce col gridare al miracolo. Con le nuove terapie. Quando c'è molta rischio. Cautela, insomma. Professor Antonino Di Pietro, grazie per essere stato con noi. Ringrazio la dottoressa Rottavender, il professor Agus, che ci hanno dato indicazioni per mantenerci in gamba. Intanto buona giornata. Noi ci sentiamo come sempre domani, dopo il GR delle 11. Un saluto da Nicoletta Carbone.